Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti. Andiamo subito al nostro sommario, ma prima voglio salutare e ringraziare Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Sommario. Metti le ali ai piedi, consigli di prevenzione e benessere. Basta ascoltare Mozart per diventare Einstein, la parola alla ricerca. Occhio alle lenti a contatto. Eccoci qui, oggi parliamo dei nostri piedi. Siamo abituati un po' a pensare a loro semplicemente come a qualcosa che ci serve per camminare, ma il piede è molto di più e purtroppo è solitamente tra le parti del corpo più trascurate. Come sempre però il conto arriva prima o poi e può essere anche molto salato. Si possono infatti verificare infiammazioni, lesioni, avvertire dolori anche intensi e anche nascere, no? Svilupparsi delle deformità spesso guaribili solo chirurgicamente. Ci sono senza dubbio piedi anatomicamente più predisposti di altri a dare problemi, li individueremo, ne parleremo. 824 0024 se sapete già di avere dei piedi un po' in difficoltà, ma in generale possiamo dire che anche per i piedi, per le patologie che possono interessarle, vale l'indicazione prevenire meglio che curare. Ma nel caso qualcuno avesse saltato questa fase così importante, si trovasse quindi a fare i conti con qualche problema, niente paura, perché oggi mettiamo i nostri piedi in ottime mani. Sono tornati a trovarci il dottor Antonio Momeo, responsabile dell'ortopedia pediatrica all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. Bentornato, che è qua in studio con me. Buongiorno a tutti, grazie. E qua in studio con me ho anche il professor Albisetti, professore associato all'Università degli Studi di Milano e ortopedico del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti voi. Allora, vi dividerete equamente i piedi dei nostri ascoltatori. Parleremo di piedi anche piccoli, di quelli morbidi e cicciottelli dei nostri bambini, che spesso ci danno qualche problema. Le mamme sono preoccupate, il mio bambino non appoggia bene i piedi, cammina in punta di piedi, ha i piedi piatti, che cosa fare? Ma ti occuperemo anche dei piedi giganti. Quindi partiamo da tutti i numeri. Allora, professor Albisetti, il piede sappiamo che ha una struttura forte e flessibile, ma noi, senza rendercene conto, lo mettiamo un po' a dura prova e lo stressiamo. Insomma, a volte lo facciamo senza rendercene conto, proprio perché sono laggiù in fondo. Professore, quali sono le persone che rischiano di più? Ma partiamo dal presupposto che possiamo dire che i piedi più stressati, se mi permette il termine, sì, sono quelli che devono avere sono sottoposti a un carico non fisiologico. Sì. Cosa vuol dire? Il peso corporeo, quindi ci dà sovraccarico. Dove abbiamo un piede che ha una diminuita area di appoggio, ci dà, come può essere il piede cavo, è un'altra situazione di sovraccarico. Sì. E a complicare, diciamo così, il problema può essere anche un'aumentata superficie d'appoggio, come può essere il piede piatto. Ma io vorrei proprio le persone. Chi sono, ad esempio, le persone che stanno in piedi molto? Penso alle commesse, penso a chi fa un lavoro, no, sempre in piedi, non solo le commesse, ma tanto mi è venuto in mente quello. Gli sportivi che il piede lo sollecitano con chi corre, ad esempio, e non solo. Il problema non è stare soltanto in piedi, il problema è stare in piedi in una posizione ferma, quindi non sviluppare la muscolatura e quindi non attivare la muscolatura del piede che permette lo stesso, diciamo così, automantenimento della superficie del piede, la volta. Sì. E quindi questa è una situazione importante quando noi stiamo fermi e magari abbiamo anche un piede che non ci consente di avere distribuiti i carichi. Allora, dottor Memeo, quindi attenzione, noi chi vogliamo raggiungere? Tutti, perché tutti, piedi ne abbiamo due, tutti, ma in modo particolare, ad esempio, chi sta molto in piedi, professor Albisetti? Sì. E vogliamo anche raggiungere chi magari ha dei piedi che non lo aiutano, perché sono anatomicamente, hanno una struttura anatomica particolare, un pochino, direi, forse sbaglio, più fragile, più predisposta ad ammalarsi. Sì, no, più che altro più predisposta ad alterare i carichi. Mi viene da pensare a coloro i quali hanno il piede piatto, quelli che hanno magari un piede cavo, oppure quelli che già da neonati hanno delle malformazioni dei piedi, quindi piede torto del bambino o delle anche malformazioni lievi che però più da grandi possono dare qualche problema. E quindi è chiaro che se uno ha un piede cavo, tanto per avere un esempio, il piede cavo è quello in cui l'appoggio è tutto scaricato anteriormente e posteriormente senza nessun appoggio sul medio piede. Sì. Quindi questi sono dei soggetti che sicuramente andranno incontro a dei rischi maggiori di sovraccarichi della parte anteriore del piede, con poi un successiva alterazione della morfologia delle dita. A proposito, dottor Memeo, noi abbiamo, i piedi non sono tutti uguali, no? Ci sono delle forme, sono state classificate, c'è il piede egizio, c'è il piede romano, c'è il piede greco, e si distinguono in base proprio alla forma, no? Vengono distinti in base alla forma e alla morfologia dell'avampiede. Abbiamo il piede egizio, che è quello che per consuetudine ha il primo dito che è più lungo del secondo e le altre dita vanno a scalare. Sì. Il piede romano o piede quadro è quello in cui le lunghezza delle dita sono tutte uguali, quindi dal primo al quinto dito sono tutti lunghi uguali, invece il piede greco è quello in cui il secondo dito è più lungo del primo. Queste sono le classiche definizioni che vengono fatte sulla morfologia della parte anteriore del piede. Allora, egizio, romano, greco, che forma ha il vostro piede? 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Allora, abbiamo individuato un po' le categorie più a rischio, i piedi, le forme dei piedi che possono darci più problemi. Io però chiederei ai miei ospiti, già li faccio subito lavorare, di aiutarci a individuare i primi segnali di malessere. Professor Albisetti, possiamo iniziare da lei? Sì, il primo segnale di malessere è quel durone che abbiamo sotto la pianta del piede dietro ai metatarsi, che è un'iperkeratosi. Quindi dove noi abbiamo una zona di sovraccarico, mi ripeto, noi abbiamo una reazione del corpo umano che la pelle si indurisce. Se la pelle si indurisce vuol dire che comunque il carico non è ben distribuito e quindi va ridistribuito. Quindi attenzione a questo durone, a questa callosità. Dottor Memeo, ha da suggerirci un altro segnale di disagio, di malessere? Beh, un altro segnale di disagio del malessere è sicuramente il dolore che abbiamo dimenticato, per cui quando uno sta in piedi e ha male, o quando addirittura ha male stando senza carico del piede, bisogna preoccuparsi. O quando mette le scarpe e la scarpa gli fa male, quindi è un'alterazione o della scarpa o del piede. A proposito della scarpa, professor Albisetti, anche lei ci dice qualcosa della salute dei nostri piedi, no? Possiamo provare a invitare i nostri amici da casa a guardare un po' le loro scarpe per capire magari se il loro piede dentro questa scarpa sta bene, magari ci sono delle scarpe che si consumano in alcuni punti più che in altri. Ci dica le cose che dobbiamo guardare per poi riferirvele. Beh, innanzitutto la scarpa deve avere tre caratteristiche fondamentali, cioè la tomaia, che è il rivestimento quindi di buona qualità, che non sempre lo è, il contrafforte con la parte posteriore che deve essere bello solido, quella che tiene il tallone, e la suola che deve essere flessibile e contemporaneamente robusta. Cosa controllare? Il tacco, dove si consuma, la suola, dove si consuma, e diciamo così, le punte, se si consumano più da una parte che dall'altra. Quindi tacco, suola e punta. Sì. Ok, guardate esattamente con attenzione le vostre scarpe e diteci all'824 0024 se e dove si consumano di più. Naturalmente segnalateci se i vostri piedi sono doloranti, se avete delle callosità proprio nella parte anteriore del piede dove si appoggia. Noi siamo a vostra disposizione, potete come sempre mandarci un messaggio al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di musica, del tanto discusso effetto Mozart. Secondo i sostenitori di questa teoria, la musica mozartiana avrebbe ricadute positive sul nostro stato emotivo, fisico e mentale, ma non tutti gli studiosi sono concordi. Insomma, l'effetto Mozart divide e fa discutere. Insomma, che cos'ha di speciale la musica del compositore austriaco rispetto ad altri generi musicali? Ne parliamo con la nostra dottoressa Erika Sibillo, medico ed esperta in musicoterapia, che ci viene a trovare con frequenza per imparare a inserire in modo corretto la musica nel nostro quotidiano. Dottoressa Sibillo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Sì, la domanda oggi è proprio giusta: perché proprio Mozart? Ma se lo sono chiesti in tanti. Ma io penso che la genialità abbia sempre affascinato un po' tutti quanti, figurarsi poi i ricercatori. Tant'è vero che gli scienziati del Centro di Neurobiologia dell'Apprendimento e della Memoria dell'Università di Irvine in California hanno cercato proprio di spiegare perché ascoltare Mozart faccia così bene e hanno intuitivamente colto il legame tra la prima formazione del musicista e questo potere straordinario, creativo delle sue composizioni. Allora, facciamo una premessa: Mozart iniziò a comporre i suoi primi capolavori all'età di 5 anni, cioè lui riusciva ad immaginare un pezzo mentre già ne scriveva un altro, cioè sfruttava, hanno detto gli scienziati, quei modelli spazio-temporali presenti nella nostra corteccia cerebrale. Quindi le sue musiche praticamente erano già nel suo cervello prima ancora che lui le trascrivesse sul pentagramma. Ma un ruolo fondamentale, hanno detto sempre questi ricercatori, fu quello di essere sempre circondato da musica fin dalla sua gestazione, poiché il padre era un bravissimo violinista, compositore, e la madre si dilettava nel canto a cantare serenate mentre aspettava il suo piccolo. Quindi, dottoressa Sibillo, se Mozart fosse vissuto in una casa dove i genitori erano amanti della musica hard rock, è molto probabile che si sarebbe indirizzato verso questo tipo di musica. Sicuramente sì, avrebbe composto la più bella melodia hard rock di tutti i tempi, sicuramente. Ma questo effetto Mozart, poi ancora più nel dettaglio, dalla California siamo passati poi alla Germania, all'Università di Francoforte, dove i ricercatori, pensate, sono andati a vedere che nel sangue di coristi che avevano appena interpretato dei brani di questo grande compositore aumentavano i livelli di due sostanze che sono indispensabili per il buon funzionamento del nostro sistema immunitario, che sono le immunoglobuline A, che noi troviamo per esempio nella nostra saliva, nel latte materno, nelle secrezioni nasali, e che ci proteggono per esempio dai virus in questo periodo di influenza, per cui insomma, se ci ascoltiamo anche una buona serenata di Mozart, probabilmente aiuteremo il nostro sistema immunitario a difenderci un pochettino di più. La dottoressa di Sibillo, Mozart, però forse lo stesso effetto si potremmo ottenerlo ascoltando un altro brano di musica che ci piace. Assolutamente sì, perché è stata trovata nel cervello l'area che risponde alla musica, ma a qualsiasi tipo di musica, basta che sia una musica che vada a stimolare le nostre emozioni. È un'area che si trova praticamente poco dietro la nostra fronte, nell'area della corteccia prefrontale, ed è la stessa zona dove passano tutte le connessioni del nostro sistema nervoso legate proprio alla memoria e alle emozioni. Quindi pensate che da Parigi è arrivata una notizia che i bambini di oggi si addormentano prima e meglio, anziché con la classica ninna nanna o la musica di Mozart, con la musica rap. Insomma, musica sì, ma sempre di grande e ottima qualità, perché la nostra mente è in grado di riconoscerne la qualità e di coglierne l'originalità e il significato sempre più profondo. Quindi, dottoressa Sibillo, più del genere musicale, la musica per fare bene deve innanzitutto piacerci. Esattamente. Allora diamo delle indicazioni, dei consigli per l'ascolto di brani musicali. Allora, ben volentieri. Di Mozart non posso far altro che consigliarvi la sonata KV305. Ma perché ve la consiglio? Abbiamo detto che Mozart può far diventare dei piccoli Einstein. Non è così, non è vero, ma in realtà Einstein era un grande ammiratore di Mozart, lo utilizzava per i suoi problemi, per risolvere i suoi problemi di lavoro. E allora Einstein stesso definì questa sonata serena, mondana, piena di giocondità, di freschezza, di innocenza. E poi, mi permetta, state parlando di piedi, la musica arriva fino ai piedi. Meno male. Infatti, c'è Paolo Conte nel 90, ha scritto una bellissima canzone che vi consiglio di ascoltare, dal titolo Happy Feet, felici piedi a tutti quanti. Dottoressa Sibillo, grazie, siamo passati da Mozart a Conte, magnifico, io la ringrazio, l'ascolteremo e intanto noi continuiamo ad occuparci dei nostri piedi. Buona giornata, dottoressa Sibillo, anche ai suoi piedi. Grazie anche a tutti voi. Pronto soccorso. Piedi 800 24 0024, ci occupiamo di loro, teniamo conto che sono un organo intelligente. Nonostante noi diciamo quando una cosa è fatta male è fatta con i piedi, loro hanno veramente, assolvono un compito fondamentale, questo lo sappiamo, ma anche molto difficile. Professore Albisetti, sono un organo di senso. Sì, potremmo dire che è un organo in senso, in quanto a livello della corteccia cerebrale il piede è molto rappresentato a livello di sensibilità, a livello sensitivo, a differenza della mano che invece è molto più motoria. Come si suol dire, infatti, quando fanno male i piedi arriva fino al cervello, arriva fino alla testa il dolore. Allora, i nostri ascoltatori hanno risposto numerosi al nostro invito per raccontarci dove consumano di più le loro scarpe, perché questo ci daranno degli indizi importanti per dare loro dei suggerimenti. Ad esempio, Alberto ci dice che consuma subito il tacco della scarpa destra verso l'esterno. Dottor Memeo. Ma potrebbe avere innanzitutto, se consuma una sola scarpa rispetto all'altra, magari c'ha le gambe che non sono lunghe uguali, quindi questo è un altro dei fattori da tenere in conto, perché non sempre un disturbo causato dal piede la causa può un disturbo del piede può essere causato dal piede. Quindi se consuma una sola scarpa anziché due, bisogna innanzitutto controllare eventualmente la lunghezza degli arti, e poi probabilmente ha qualche sovraccarico che gli fa appoggiare il piede con un carico esterno maggiore che all'interno. Giovanna, il problema opposto, professor Albisetti, tacchi consumati verso l'interno ma per entrambe le scarpe, quindi Giovanna ha le gambe lunghe uguali, potremmo dire. Potremmo dire di sì. Potremmo azzardare questa... di rispondere in questo modo. C'è da andare a valutare se ha un ginocchio valgo, ad esempio, cioè quel ginocchio ad X, tale per cui la parte interna del retropiede, cioè del calcagno, va ad appoggiare. Oppure quella che viene chiamata sindrome pronatoria, e cioè che il piede, il calcagno, cade verso l'interno come se fosse un ponte che si adagia verso l'interno più che cedere. Allora, ho il piede greco, consumo le scarpe sulla parte esterna, davanti e dietro, nessun particolare problema, solo un callo sul secondo dito, a volte male ai talloni, ci scrive Fiore. Il callo sul secondo dito potrebbe essere causato appunto dal fatto che nel piede greco il secondo dito è più lungo e quindi se il callo è in punta, perché va a urtare la parte anteriore della scarpa, se il callo è sul dorso potrebbe instaurarsi l'inizio di un dito martello. Sergio ci chiama dalla provincia di Monza. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Che scarpe porta Sergio? Lei allora, è con le scarpe allacciate o i mocassini? Questo può... Evidentemente le mocassini. Mocassini. Ma il mio intervento era su un problema che è sorto a mia moglie. Dieci mesi fa abbiamo preso un paio di ciabatte, ortopediche. Sì. E dopo due o tre mesi si è formato un callo oppure un durone, non so come chiamarlo, ma molto grosso, e non riesce più a camminare con scarpe normali, diciamo, ecco. E io volevo semplicemente... In che punto? Sopra o sotto? Al termine delle dita. Sulla punta? Esatto. Ma piuttosto grosso è il durone. Allora, dato che i duroni, abbiamo capito Sergio, che ci danno sono un segnale importante, perché vuol dire che il nostro piede non appoggia bene, oltre a magari essere troppo a contatto con la corpo. Ecco. Allora, professor Albisetti, ha bisogno di qualche indicazione in più da Sergio? Sì, che così se è all'esterno o all'interno? Esterno o interno? Cioè sull'alluce o sul quinto dito? Alluce o quinto dito. Quinto dito si dice? Verso l'alluce. Sì. Professor Albisetti. Quindi potrebbe essere il fatto che, pur avendo una scarpa ortopedica, va ad alterare il suo appoggio. Vuol dire che quindi è che appoggio più medialmente, più centralmente. Vuol dire che c'è un'ipercorrezione probabilmente. Allora, 824 0024, abbiamo detto che l'appoggio è fondamentale. Si può, se un piede non appoggia bene, dottor Memeo, che cosa si può fare? Beh, innanzitutto bisogna capire perché non appoggia bene. Se sono degli appoggi poco gravi, si può ovviare con l'utilizzo di plantari o le cosiddette ortesi, che possono essere, che devono essere fatte su misura, quindi si fanno o su calco o con un baropodometro o con altri accessori di questo tipo, e devono comunque scaricare la parte che è più sollecitata, e si utilizzano normalmente negli adulti all'interno di una calzatura normale, sostituendo quella che è la soletta della calzatura con un'ortesi fatta su misura, e i problemi lievi generalmente con questo tipo di ausilio vanno a buona soluzione. Se invece il problema è più grave, nel senso che uno ha una deformità grave del piede, allora bisogna ovviare a questa con un intervento chirurgico, perché anche una luce valgo di entità piuttosto importante può non far portare delle scarpe comodamente a chiunque di noi. Ha toccato un tasto, quello della luce valgo, ne parleremo, perché ci sono tantissimi messaggi che ci dicono: ma si può prevenire, è vero che viene solo con le scarpe? Ma prima ho in linea con noi Maurizio da Verona, lo saluto, buongiorno. Buongiorno. Maurizio, ci parliamo dei suoi piedi, Maurizio. Sì, i miei piedi hanno avuto delle belle avventure. Essendo con piede piatto dalla nascita, ho portato plantari correttivi da bambino. Sì. Quindi ne ho portati tantissimi tipi, quelli che diceva il professore, li ho provati un po' tutti, ma non ho mai risolto completamente il problema. Ho avuto dei miglioramenti, ma mai risolto il problema, anche perché la difficoltà di inserirle nelle scarpe normali, questi plantari, sono abbastanza invadenti. Adesso ultimamente sono un po' più sottili, ma lo stesso creano problemi. E Maurizio, pensi che lei non porta i tacchi? Pensi? Maurizio, lei quanti anni ha? 50. Dottor Memeo, allora... Chi come Maurizio, e ci sono tante persone che hanno i piedi piatti, nonostante i plantari, tutte le attenzioni possibili e immaginabili, sono rimasti un po' delle frittelline. Ecco, nel tempo possono dare problemi. Lei li ha infatti citati tra i piedi che fanno più fatica a sopportare il carico delle attività quotidiane. Che cosa si può fare? Si può intervenire chirurgicamente se la situazione è particolarmente grave anche a 50 anni? Ci sono dei plantari nuovi? Che cosa possiamo dire a chi come Maurizio si ritrova nella sua situazione? Sì, rispetto all'epoca di Maurizio, che peraltro ha la mia età esatta, grandi anni, una volta non si interveniva chirurgicamente nel bambino, o meglio nell'adolescente. Adesso queste situazioni si possono prevenire, perché quando si arriva intorno ai 10-11 anni un piede piatto non è arrivato a una correzione o fisiologica sua o a causa all'utilizzo di ortesi, si deve intervenire chirurgicamente e quindi il problema poi si risolve a monte. È chiaro che a 50 anni intervenire chirurgicamente su un piede piatto è molto più complesso e può alle volte non dare dei risultati assolutamente soddisfacenti. Se però ha un piede piatto grave, a questo punto... E se fosse così e così, si va di plantare. Se fosse intermedio, si va di più che di plantare, anche di scarpa fatta su misura eventualmente. Eccoci, siamo tornati insieme. Oggi parliamo dei nostri piedi. 824 0024, questo è il numero per intervenire in diretta e parlare con i nostri esperti che sono in studio con me. Ma prima di dare spazio alle vostre domande, ci occupiamo dei nostri occhi, in particolare degli occhi di chi porta lenti a contatto. La Società Italiana Trapianto di Cornea ha reso noti in una conferenza stampa dei dati che sottolineano potenziali rischi associati ad un uso scorretto delle lenti. Per saperne di più abbiamo in linea con noi il professor Balestrazzi, che è direttore dell'Istituto di Oftalmologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli, e presidente della Società Italiana Trapianti di Cornea. Professor Balestrazzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Professore, sono molti gli italiani che fanno uso di lenti a contatto. A quali eventuali rischi si espongono? Ma sono molti, sono circa 2 milioni, è un numero importante. I rischi non sono particolari se rispettano quelle che sono le indicazioni che ad essi danno gli oculisti e gli ottici. I rischi cominciano quando c'è troppa superficialità nel adottare un presidio che è sempre un presidio sanitario, non è un gioco da ragazzi, e quindi bisogna attenersi a regole igieniche e comportamentali assolutamente precise. Professore, vogliamo ripeterle, quindi le lenti a contatto, se utilizzate nel modo corretto, non danno problemi. Anzi sono da consigliare. Sono da consigliare, però bisogna usarle bene, quindi non trascurare delle l'igiene ad esempio. Professore, quali sono gli errori più comuni e quelli che rappresentano dei maggiori rischi? Gli errori più comuni sono quelli di tenerle troppo innanzitutto, e superando largamente le 8 ore che vengono consigliate al giorno. Tenerle di notte, e questo è assolutamente da consigliare. Lavarle con il primo liquido che capita e non con liquidi destinati appunto a detergere le lenti a contatto. E se no addirittura con la saliva o d'altro. E quindi non attenersi a delle regole igieniche assolutamente. Quindi non bisogna portarle troppo, non più di 8 ore sicuramente, non di notte, bisogna lavarle con i liquidi appositi. Professor Balestrazzi, quali sono i segnali da tenere in considerazione per il portatore di lenti a contatto? Un arrossamento, un bruciore agli occhi, in cui magari è bene parlare con un oculista, con un ottico, e segnalare questo problema e non dire: beh, tanto saranno le lenti, domani mi passa. No, l'organismo reagisce subito a un problema, quindi la congiuntiva attorno alla cornea si arrossa, sì, e comincia una sensazione di colpo estraneo molto fastidiosa. In quel momento il paziente deve togliere la lente a contatto, andare dall'oculista o dall'ottico immediatamente, far vedere cosa sta succedendo, meglio dall'oculista in questo caso naturalmente. E il problema è che invece spesso nei giovani, quando questo avviene in una condizione di scarsa sensibilità della cornea, alludo purtroppo all'uso delle droghe in una discoteca o d'altro, questa sensibilità della cornea non c'è più e quindi il campanello d'allarme non suona, certo, e quindi l'infezione avanza e poi è molto tardi quando si può intervenire, perché manca del tutto la sensibilità corneale sotto l'effetto di stupefacenti o quant'altro. Professore, quindi un invito ai portatori di lenti a contatto di seguire scrupolosamente le indicazioni che sono fornite dagli ottici e dagli oculisti. Al primo segnale di fastidio, diciamo anche solo fastidio, rivolgersi allo specialista. Togliere la lente a contatto, mettere l'occhiale. Un invito particolare ai giovani a stare attenti, perché purtroppo rischiano di perdere la vista. E perché non sempre poi un trapianto di cornea, ecco perché vogliamo far prevenzione in questo senso, riesce a risolvere il problema e quindi si rischia veramente di perdere la vista. Ho dei dati per esempio del pronto soccorso dell'ospedale oftalmico di Roma: in 2 anni sono stati viste 21 gravi infezioni da lente a contatto in giovani, di cui 16 hanno portato al trapianto di cornea. Ecco, un dato che ci fa riflettere. Ricordo, come sempre, quando parliamo di salute, di benessere dei nostri occhi, il numero della IAPB, l'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità, 800 06 8506. Professor Balestrazzi, la ringrazio e buona giornata. Altrettanto, grazie. Allora, abbiamo parlato del piede piatto e abbiamo detto quali rischi può comportare. Può essere corretto quando siamo un pochino più avanti, quando non siamo più bambini, con dei plantari. Ma a proposito di plantari, professor Albisetti, apriamo una piccola parentesi. Arrivano molti sms degli ascoltatori che dicono: da quando mi sono fatto fare il plantare non ho più calli, non ho più mal di schiena. Quindi il plantare sembra per molti casi rappresentare una soluzione, ma il plantare deve avere delle caratteristiche. Cioè non c'è un plantare, non si compra un plantare come un paio di scarpe alla moda. Il plantare deve essere fatto su misura, no, professore? Altrimenti si corre il rischio dell'ascoltatore di prima, che dice che ha preso la scarpa con un supporto ortopedico ed è peggiorata la situazione, quella della moglie. Sì. Il plantare deve essere fatto su misura, che poi sia anatomico anche correttivo, ma è molto soggettivo. Il plantare deve essere fatto su quella persona, su quel piede. Che dire, il plantare serve per far sì che tutti i carichi a livello del piede si distribuiscano uniformemente. È un po' come dire una fondamenta di una casa. Sì. Se la casa ha delle buone fondamenta, la casa tiene. Sta in piedi bene. Sta in piedi bene, anche di fronte a scosse telluriche o che altro. Quindi se non abbiamo il piede che appoggia bene, non soltanto il piede ne va a soffrire, ma anche tutto quello che c'è sopra. Quindi tutte le articolazioni, comprese la schiena, schiena, in particolar modo, certo, il mal di schiena. Perché poi cerchiamo di compensare, adottiamo magari delle posture scorrette. Dottor Memeo, io vorrei intanto salutare Gianluca da Caserta, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Gianluca, mi scusi, volevo chiedere, dottor Memeo, segniamocelo, anche di parlare del piede cavo. Ci sono tanti messaggi dei nostri ascoltatori che dicono: ho provato i plantari, più porto i plantari, più il piede sembra accentuare questa caratteristica. Quindi ce lo segniamo, ma diamo prima la linea a Gianluca. Gianluca, buongiorno. Salve, buongiorno, faccio i complimenti velocemente per la vostra puntuale competenza e professionalità. Io ho un bambino di 1 anno, da un mesetto sgambetta, abbiamo iniziato a comprare delle scarpe, le solite marche diciamo pubblicizzate. Sì. E volevo sapere dai professori in studio due o tre regole fondamentali. Bene, Gianluca, grazie, perché ci saremmo arrivati ad occuparci dei piedi che sono i più belli, no? Il piede più bello è quello dei bambini. Dottor Memeo, lei che ne vede tanti, sì o no? Sì, sì, assolutamente sì. Certo. Beh, generalmente se il piede di un bambino di 1 anno, quando inizia a camminare, 12 10-15 mesi non camminerà moltissimo, quindi per la casa può usare quelle scarpe che vengono definite più babucce che scarpe, quindi le antiscivolo. In casa le antiscivolo vanno non benissimo, a piedi nudi. Ma meglio con l'antiscivolo, perché si evita il contatto col freddo del pavimento o col caldo se il pavimento è sottoriscaldato, si evitano le schegge delle moquette se per caso uno ha delle moquette o dei tappeti, e si evita magari di scivolare sul parquet se uno ha il parquet lucidato, sì, che quindi anche per questo. Sicurezza però il piede fa ginnastica anzi fa una ginnastica ottimale con le calze antiscivolo. Invece per camminare diciamo fuori per strada, le scarpe del bambino, quelle diciamo delle marche più blasonate, sono tutte ben confezionate. L'importante è che il materiale sia idoneo, nel senso, ma al di là delle marche io guardo la scarpa per un bambino e cosa devo guardare? Le regole che ci ha detto il professor valgono per l'adulto assolutamente valgono anche per il bambino. Non si usano più come si usavano una volta le classiche scarpe ortopediche. Se il bambino non ha nessun problema, la scarpa deve essere, con le regole che abbiamo visto, normale. Se il bambino invece ha dei problemi particolari, allora si fanno dei plantari correttivi. A proposito di scarpe, poi andiamo al piede cavo e soprattutto alla prevenzione, se esiste della cipolla, così la chiamiamo noi, quello che voi invece chiamate allucevalgo, no? Professor Albisetti, una mamma mi scrive, e così risponde anche a me, i ragazzi portano, adolescenti, queste scarpe da ginnastica senza, non si allacciano neanche più le stringhe, perché così fa, no? Fa giovane. Ecco, fa gruppo, e quindi piattissime. Possono esserci dei problemi? Ci sono piedi di adolescenti che sulla scarpa da ginnastica soffrono più di altri? Sì. Nel momento in cui lei porta delle scarpe... Mi auguravo che lei mi dicesse no. Sì, invece sì, perché nel momento in cui porta le scarpe non allacciate, lei non può fare un buon svolgimento del passo. Il passo solitamente si svolge in questo modo, schematicamente. Retropiede, si appoggia retropiede, avampiede, fase di spinta. Sì. Se io ho le scarpe slacciate, devo trascinare il piede. Non posso quindi camminare bene. Non camminare bene, non sviluppo la muscolatura propria del piede quindi il problema è che si morde, ecco, la coda. Il problema è per le stringhe, non è tanto per questa suola piatta delle scarpe da ginnastica. Sono due cose diverse, perché vedo in giro i ragazzi con slacciate le stringhe anche con le scarpe da jogging che non è piatta necessariamente. A mio modo di vedere, la scarpa completamente piatta non sempre è idonea. In che senso? Nel senso che non ha funzione da plantare. Se poi è slacciata la stringa, mi sa che sarà difficile, sì, molto difficile. Almeno io la vedo durissima a convincere le mie figlie ad allacciarsi le cose. Non so, magari i nostri ascoltatori hanno qualche suggerimento da darci. Dottor Memeo, questo piede cavo, che si può fare? Si può correggere? Si può cercare di compensare? Perché i miei ascoltatori dicono che il problema peggiora, mentre il piede piatto alla fine non peggiora tanto? No, il piede piatto è piatto. Si può peggiorare perché può dare delle alterazioni di carico a livello della caviglia e quindi del ginocchio. Il piede cavo qualche volta può peggiorare, certamente quando peggiora è un campanello d'allarme che si deve instaurare. Bisogna valutare anche altri aspetti che possono essere anche legati a un problema neuromuscolare, quindi magari ci sono alcuni muscoli o tendini che non funzionano bene, o ci può essere collateralmente associato anche un problema di tipo magari neurologico, se un piede piatto diventa diventa ingravescente nell'età adulta. E poi le soluzioni possono essere sicuramente prima diagnostiche e poi in una seconda fase anche chirurgiche. Adriana, si è tolta le scarpe? Sì. Ok, allora ecco, io ho delle mani a cui affidarle. Adriana. Allora, niente, io ho un piede che ritengo un po' particolare, perché dovrebbe essere quadrato, da come ho sentito prima, quadrato, però ha il mignolo molto corto, deviato verso l'interno. Ho un po' di alluce valgo in entrambi i piedi e le dita leggermente a martello, un piede molto magro, sottile. Sì. E niente, siccome non ho problemi particolari, aperto all'estetica, che appunto io lo ritengo orrendi come piedi. Ma sai che, Adriana, sai che i piedi a noi non piacciono, a nessuno piacciono i propri piedi, vero. No? Professor Albisetti, lei che dice che ne vede tante, sente tante, anche tante ballerine, sono contente dei loro piedi? O è sempre un po' un qualcosa di cui... È un qualcosa che si nasconde, è più un fatto culturale, sì, però. Il piede si nasconde, quindi Adriana, lei avrebbe un piede romano secondo le descrizioni, le descrizioni del dottor Memeo, però ha questo il quinto dito che si accavalla un po' di alluce valgo e... e le dita leggermente a martello. E le dita leggermente a martello. Allora, come lavorando in un negozio di scarpe ne vedo veramente di tutti i colori, e mi preoccupo nell'avanzare della mia età, anche se appunto ho 34 anni, voglio dire ho ancora un po' di tempo, però ho paura nel senso del nel modo poi di camminare che ho, di poter magari aggravare questo problema, ecco. Professor Albisetti, diamo una sistematina ai piedi di Adriana, che a sua volta serve tante magari signori che hanno problemi un po' simili al suo, lavora in un negozio di scarpe. Professore. Beh, al di là del fatto che io penso che le commesse di un negozio di scarpe siano le persone più pazienti del mondo, perché più ancora di quelle che scegliono le cravatte. Che dire, se ha un quinto dito che è deviato all'interno e un primo dito, quindi la luce valgo, deviato anch'esso all'interno, è probabile che abbia i metatarsi che siano vari. Nel senso che guardano in fuori, per cui le dita guardano in dentro, sì. Detto in due parole. Sì, così capiamo. Quindi siamo capiti. Importante sarebbe fare una lastra dei piedi in piedi, che è fondamentale, perché se uno fa la radiografia dei piedi da sdraiato non ha il carico e quindi non riesce a capire com'è l'appoggio. Dopodiché, in base alla radiografia, uno decide se correggere il metatarso o sostenere, diciamo così, la parte centrale dei metatarsi, quindi dietro le dita. Perché se una persona ha la luce valgo, il quinto dito che guarda in dentro, le dita a griff, diciamo così, un pochino che sia ad artiglio, va risollevata quell'arco anteriore. E qui, questo è possibile, quindi ad Adriana e a tutte le persone che guardandosi i piedi vedono che hanno tutti questi piccoli problemi, insomma le dita che si accavallano un po' all'inizio di allucevalgo, si può non curare, con il plantare non è curativo, si può rallentare la progressione. Andiamo a Maurizio che ci chiama da Chieti. Maurizio, buongiorno. Buongiorno dalla provincia di Chieti, complimenti, sono doverosi. Allora, grazie. La mia domanda è questa, sì. Io lavoro molto in piedi. Sì. Che lavoro fa Maurizio? Cammino moltissimo e faccio anche un po' di sport, gioco a tennis. Sì. Il problema è questo, da un po' di tempo avevo dolori sotto i talloni e il piede destro mi hanno riscontrato una fascite plantare. Ho provato 3 plantari su misura, non hanno risolto il problema. Sono andato da un fisioterapista, mi ha fatto il controllo posturale con un computer, ha visto che io, non lo so, di congenito, cammino con appoggio molto più i talloni che la parte anteriore del piede, un 76% contro un 24%. E quindi? E mi ha detto, mi stanno facendo delle terapie, il sole, mi fanno fare, però non sono convinto. Volevo sapere dai consigli. Non è convinto, Maurizio. Se risolvo il problema. Vediamo se il dottor Memeo la convince, almeno un suggerimento. Un'indicazione è in grado di dargliela. Sì, le indicazioni fondamentali sono prima di fare comunque una radiografia del piede per vedere se c'è la famosa spina calcaneale al di sotto del calcagno, che potrebbe essere questa la causa dei suoi dolori, e eventualmente un'ecografia della pianta del piede che evidenzia una fascite plantare. Se poi viene diagnosticata la fascite plantare è un'infiammazione della fascia plantare, che è quella che si inserisce a livello del calcagno posteriormente. Se queste due problematiche vengono diagnosticate, allora le terapie sono svariate. Inizialmente si può utilizzare o delle talloniere più che un plantare, qualche volta sono sufficienti delle talloniere in lattice di scarico, qualche volta si possono fare delle applicazioni di laser terapia, di tecar terapia o eventualmente in qualche caso specifico anche dei trattamenti con onde d'urto. Se tutto questo non funziona, abbiamo le ultime due spiagge. Si può provare a fare delle infiltrazioni nella spina, nella fascia plantare, oppure bisogna entrare nella chirurgia per fare un intervento a carico della spina e della fascia. Però, e questo però gli ho detto, gli ho dato anche l'ultima spiaggia. I piedi piatti sono più a rischio di allucevalgo oppure... Non è detto. Ma se noi vediamo che l'alluce inizia a spostarsi leggermente, è il tempo di andare da un ortopedico, da un fisiatra, da chi andiamo per farci consigliare il trattamento giusto, che abbiamo capito essere il plantare, o si parla anche di una specie di tutorino? Sia dall'ortopedico che dal fisiatra. E poi c'è tutta la diagnosi da fare, che è quella che abbiamo detto prima. Dopodiché io personalmente tutorini notturni non credo molto, perché la funzione è quella che sviluppa l'organo, come si vuol dire, e quindi di notte non appoggiamo il piede, soltanto in situazioni così di mantenimento, però è abbastanza camminare il mattino dopo che quindi torniamo come prima. Sì. secondo me è da valutare in queste situazioni iniziali la scarpa, perché la scarpa è comunque la condizione, diciamo così, predominante per portarci poi a instaurarsi queste patologie. Noi non siamo fatti per camminare sul duro. Non siamo stati fatti camminare sul duro, siamo arrivati a camminare sul duro, ed è questa la condizione fondamentale. Allora andiamo a Diego da Torino. Buongiorno Diego. Buongiorno a voi, grazie. Senta, io chiamo per mia moglie. Sì. Mia moglie ha 48 anni, praticamente da più di 12 anni ha avuto, diciamo, ha cominciato ad avere problemi ai piedi. E ha seguito per diversi mesi un podologo che gli ha messo dei distanziali. Diego, le chiederei di andare subito alla domanda, perché abbiamo anche Roberto che ci aspetta da Milano e poi i minuti corrono. Mia moglie alla fine, diciamo, per troppe sofferenze, perché aveva la luce valgo e il due dita martello, alla fine ha deciso di farsi fare l'intervento. Sì. L'intervento ha detto sia del suo professore che lei, che diciamo. Sì, va bene. Com'è andato Diego l'intervento? Come sta? Dicono che solo che mia moglie da allora ha più dolori di prima. Allora Diego, ecco, questo dottor Memeo qua la voglio. Uno si fa operare e affronta l'intervento con tutte le paure, perché l'intervento della luce valgo, voi ortopedici adesso dite, è meno invasivo dell'altro, abbiamo le tecniche eccetera, però tutti ci abbiamo paura a toccare la nostra cipolletta. Ecco, uno si opera e sta peggio di prima. È una domanda imbarazzante, però è difficile, è passato molto, innanzitutto bisogna sapere se è passato poco o tanto tempo. Ma nel senso che facendo 100 interventi, qual è alto il rischio che ci ritroviamo a soffrire di male al piede? Beh, nell'arco di 100 interventi comunque un 8-10% di possibile persistenza del dolore lo mettiamo in conto. Bisogna valutare se l'indicazione all'intervento era corretta prima, nel senso che tutte le indagini devono farci capire che tipo di intervento dobbiamo fare. Nel caso l'operazione andasse male, quindi avvertiamo dolori, che si fa? Si riopera? Si rimettono plantari? C'è modo di rimediare a, non voglio chiamarlo errore, no, ma insomma si può rimediare magari mettendo dei plantari o facendo altre terapie. Prima di arrivare a rioperare bisogna effettivamente capire se ce n'è la necessità. Roberto ci chiama da Milano. Roberto, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Roberto, io con lei rischio molto, perché sto sforando. Rapidamente, perché voglio darle la parola e un suggerimento dei nostri esperti. Sia rapidissimo. Rapidissimo. Dopo i 15 mesi, con piede torto, l'iter è stato non invasivo e positivo. Le statistiche con metodo Ponseti sono abbastanza basse. Ci dicono 3 anni di tutore durante la notte. Sì. È una statistica che vale per un periodo così lungo ed oppure, è abbastanza affidabile, oppure si può rimediare prima. Dottor Memeo, poi chiedo a Roberto che se vuole approfondire può mandarci un'email a essere benessere@radio24.it, i nostri esperti rispondono sempre. È corretto, se uno si affida al metodo Ponseti si deve affidare al metodo Ponseti dall'inizio alla fine, quindi quello che gli hanno detto è corretto. Ci sono altre alternative al metodo Ponseti che sono magari un pochino più cruente, ma che possono portare analoghi risultati in tempi più brevi. Quello che lui ha parlato, ha detto dei 3 anni col metodo Ponseti è corretto. Allora, dottor Memeo, professor Albisetti, grazie per essere stati con noi, per averci un po' insegnato ad occuparti dei nostri piedi. Resta a voi l'invito, se avete problemi, dubbi, se non siete riusciti a intervenire in diretta, a scriverci, essere benessere @radio24.it. Grazie a voi, grazie a voi che ci avete grazie seguito. Intanto appuntamento a domani, io vi aspetto sempre dopo il GR delle 11:00.